Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora ben trovati amici da Francesco Galante, oggi con noi, essendo giovedì, c'è l'appuntamento con Diritti e Rovesci insieme all'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che come sempre ci racconta cose assolutamente interessanti che capitano a voi e che in qualche modo poi l'ADICO cerca di risolvere. Quella di oggi invece è uno sguardo su quello che accade nel mondo del lavoro, vero Carlo Garofolini? Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, hai introdotto bene, questa è una vicenda che in questo caso accade proprio nel mondo del lavoro, di cui noi come ADICO abbiamo voluto dare risalto, perché troppe poche volte si perde l'occasione di parlare di questo fenomeno delle morti bianche. Perché nel momento in cui si parla di lavoro, si parla di lotta al precariato, secondo noi troppo poco ancora si fa per migliorare le condizioni negli ambienti di lavoro. E il dato di cui andremo a commentare, secondo il nostro giudizio, è la prova di come questo fenomeno, le morti bianche, cioè le persone che muoiono nei luoghi di lavoro, sono dei dati che ancora sono troppo rilevanti e soprattutto hanno un trend in continua crescita rispetto a quello che qualche anno fa invece eravamo abituati a commentare. I dati ci dicono che ci sono stati da gennaio a luglio 643 incidenti mortali sul lavoro in tutta Italia. Sì, allora il dato sono che nei primi 7 mesi del 2015, come ho detto, sono morte 643 persone nei luoghi di lavoro, ma soprattutto è un dato che rispetto al 2014 è aumentato del 9,5%, ma un dato che fa ancora, dà ancora maggior significato se pensiamo che tradotto vuol dire 90 morti circa al mese. Non è un dato accettabile, soprattutto, ripeto, nel momento in cui si sta cercando di fare qualcosa per far ripartire questo paese, ma non riusciamo a capire come mai rispetto a un fenomeno in cui aumenta la disoccupazione, dall'altro aumentano le persone che muoiono sul lavoro. Questo, secondo il nostro giudizio, è un dato per far capire come le condizioni negli ambienti di lavoro, in virtù di quella che è una situazione di cui molti imprenditori stanno anche approfittando per spremere, secondo il nostro avviso, i lavoratori che operano nei cantieri oppure nelle fabbriche, causano ancora troppi decessi. E in particolar modo il nord-est rispetto al centro, dove i morti sono stati oltre il 32%, rispetto al centro Italia 15%, sud 31%, e poi possiamo stare le isole, eccetera. Dati tragici, si parla molto di sicurezza sul lavoro, evidentemente c'è ancora molto da fare. C'è ancora molto da fare, poi se vogliamo parlare del Veneto, vediamo la Lombardia con 70 morti e parliamo solo dei primi 7 mesi del 2015, lo ricordo, c'è la Toscana 46, la Campania 43 e il Veneto 42, quindi il Veneto risulta al quarto posto in Italia. 42 morti in 7 mesi crediamo che siano tanti. C'è molto da fare, probabilmente quello che è stato fatto fino ad oggi non solo a nostro avviso come detto è insufficiente, ma probabilmente bisogna fare qualcosa di più serio. Quindi non si tratta solo di fare controlli, ma pensare anche di fare qualche cosa di più utile per prevenire queste morti che oggi devono assolutamente essere contrastate. Ecco, probabilmente ci vorrebbe anche una cultura del lavoratore, un'attenzione particolare e andare a denunciare dove ci sono delle mancanze. Forse poi questa cosa viene a mancare per paura di perdere il lavoro o chissà che altro. Sì, quello che dici senz'altro può essere una conseguenza, però bisogna anche avere il coraggio di dire che oggi le nuove leggi cercano sempre di fare in modo che il lavoratore sia sempre più responsabile di quello che accade e cerca di sgravare sempre di più invece di tirare dell'azienda a fare i controlli che dovrebbe. Bisogna trovare, secondo me, un giusto equilibrio tra chi fa impresa e tra chi presta opera, perché oggi non è pensabile che in un momento in cui l'azienda taglia nel personale e chi si trova a lavorare si trova in condizioni di lavorare in maniera sempre più esasperata, con ritmi di lavoro sempre più sfrenati, con riposi sempre più carenti, con condizioni sempre più tirate rispetto a qualche anno fa. Una revisione generale di quelli che sono un po' i dati dovrebbe indurci un attimino a prendere in esame questa situazione e a fare qualcosa di serio. Grazie per questa riflessione su questa che in qualche modo è un'emergenza, 643 morti bianche in 7 mesi in Italia. Grazie quindi all'Adico, a Carlo Garofolini, che ritroveremo anche la prossima settimana. Io ringrazio te Francesco e colgo l'occasione per salutare te e ti ascolto te. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.